Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, diciamo che il clima generale in Europa è positivo sull'incontro dell'Eurogruppo di domani. Si sono molto, ne parleremo, ammorbidite alcune posizioni tedesche soprattutto, e lo si vede molto bene in borsa, perché le borse, dunque, Milano ha recuperato i 17.000 punti, guadagna il 3,80%, Parigi il 4,5%, Francoforte il 5,60%, Londra non c'entra con il piano europeo, guadagna il 2,80%, ben intonato anche il Dow Jones, più 4,70%. Il mercato crede comunque nelle iniezioni importanti di liquidità e le garanzie. Poi c'è il fronte italiano, di cui ci occuperemo. Invece oggi faremo sia l'attesa per l'Eurogruppo di domani che il fronte italiano, perché c'è il decreto, quello che deve garantire la liquidità alle imprese e quindi dare la garanzia bancaria per la liquidità che le imprese chiederanno, che il Consiglio dei Ministri riprenderà, e manca quel tassello. È già uscito invece sulla scuola un'indicazione molto importante, che adesso vado a riprendere, perché sostanzialmente lo spirito è il seguente: per l'esame di maturità e per l'esame di terza media, se le scuole non riapriranno entro il 18 di maggio, non vi sarà sostanzialmente nessun esame, nel senso che sono due ipotesi: o si torna in classe il 18 maggio e allora per la maturità ci sarà una prova nazionale di italiano e la seconda prova sarà preparata dalla commissione interna, e quindi comunque sarà una maturità ridotta. Se invece non si tornasse a scuola, ci sarà un'unica prova orale, anche telematica, quindi anche in collegamento video. Nell'ipotesi in cui non si torna in aula entro il 18 maggio, niente esami di terza media, solo valutazione dei professori, e infine tutti promossi all'anno successivo per quello che riguarda chi non ha gli esami. Questo appunto il tema scuola. Il tema invece linee di credito alle imprese è ancora in discussione, però ci sono altre notizie nel frattempo. Da un lato lo spread è sceso a 190 punti, perché è iniziato l'acquisto. La BCE oggi ha comprato 30 miliardi di euro di titoli di Stato nei primi 5 giorni di vita del PIP, che è il programma di acquisto titoli per l'emergenza pandemica, quindi è il dato, si riferisce a quanto già accaduto. Questo vuol dire però, se proiettato sul mese, se hai fatto 30 miliardi in 5 giorni di acquisti, vuol dire che sono più o meno 133 miliardi al mese, contro gli 83 che erano previsti dai 750 miliardi di fondo di questo PIP, di questo programma di acquisto titoli. Questo vuol dire che cosa? Che la BCE sta comprando più di quanto non sarebbe previsto dai 750 miliardi spalmati, e sta comprando molto di più adesso, e questo ha ridotto lo spread, nel senso che i rendimenti vengono tenuti bassi dalla Banca Centrale Europea. Lo spread italiano dei BTP a 10 anni con l'equivalente Bund tedesco scende a 190 punti, e il rendimento è sotto l'1,5%, all'1,49%. Questo è molto importante, perché vuol dire che l'Italia deve spendere meno soldi per finanziare il suo debito. Nel frattempo, altre notizie appena arrivate, ma ve le do volentieri. La prima riguarda un accordo tra il Ministero Economia e Finanze e la Farnesina sul sostegno all'export. Sostanzialmente lo Stato assicurerà, attraverso la SACE, 50 miliardi di garanzie all'export, liberando quindi 50 miliardi per nuove garanzie che dovrebbero consentire all'export di ripartire, almeno di avere, e a questi si aggiungono altri 200 miliardi per nuovi investimenti nel 2021. Questo è il fronte. Infine l'agricoltura, di cui ci occuperemo nei prossimi giorni, la von der Leyen. Ecco, l'agricoltura è materia prevalentemente comunitaria. La von der Leyen, la presidente della Commissione Europea ha detto: siamo al fianco degli agricoltori, vareremo nuove azioni con l'evolvere della situazione, l'impegno a far arrivare agli agricoltori la liquidità più velocemente possibile, sburocratizzare gli iter e anche più tempo a disposizione per presentare le richieste per i pagamenti diretti per quelli dello sviluppo rurale. Questo è il fronte, diciamo, europeo tra BCE e von der Leyen e attese di un possibile accordo, vedremo poi, io finché non lo vedo non ci credo, senza condizionalità e quindi senza che vi siano vincoli nell'utilizzo dei fondi, diciamo, per l'emergenza coronavirus, non vogliamo chiamarli corona bond, vedremo quello che uscirà. L'importante è che appunto non vi siano condizionalità, cioè che non vi siano rischi poi di un commissariamento. Il ministro Catalfo ha detto che nel disegno legge di aprile arriveranno anche gli ammortizzatori sociali per colfe e badanti. E adesso diamo anche la cronaca delle richieste, per esempio, arrivate all'INPS in questi giorni. I temi di cui ci occuperemo sono appunto il Consiglio dei Ministri sul fronte garanzie per le imprese, garanzie statali per i prestiti bancari alle imprese, per meglio dire, e poi il tema Eurogruppo, come sta evolvendo. Per quello che riguarda i mercati, dicevo, tutti positivi. Nel caso specifico Milano vede andare molto bene i gruppi bancari, ma non solo. Campari più 9,60, Unicredit più 9,40, Intesa più 9,30, STMicroelectronics più 8,20, Exor più 7,5 come Moncler, il 6,70 lo guadagna Mediobanca, il 6,5 Leonardo, il 6,40 il rialzo di Nexi, il 5,5 di Unipol, il 5 di Buzzi, il 4,80 di Generali e di Amplifon, il 4,80 rialza anche Fiat Chrysler, il 4,5 Prismian e A2A, il 4,5 rialza anche di Azimut e Ferrari. Mi fermo con chi guadagna più del 4%, quindi Case New Holland e Banca Mediolanum. Di negativo non c'è praticamente niente, Italgas meno 1%, Eni meno 0,20%. Quindi le borse credono in iniziative massicce e nel caso europeo anche congiunte per quello che riguarda il sostegno alle economie. Adesso qualcuno mi sta già scrivendo come funziona sulle garanzie entro i 25.000 euro, adesso vi arriveremo, anche i controlli ci mancherebbe. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Come ogni lunedì torna anche l'appuntamento con Alessandro Platerotti dietro la notizia. Oggi ci occuperemo di un'inchiesta che riguarda l'FBI e la SEC, la Consob americana, su vendite un po' sospette fatte da alcuni senatori americani prima che Trump dichiarasse l'emergenza nazionale. È un tema che sta scaldando molto gli Stati Uniti, perché è chiaro che i politici, soprattutto quando fanno parte di gabinetti di comitati ristretti, hanno avuto informazioni prima del resto del paese, e ci sono 5 senatori, devo dire in maniera bipartisan, se non ricordo male sono 3 repubblicani e 2 democratici, che sono sotto inchiesta per capire come mai hanno venduto quantitativi ingenti di azioni prima che venisse annunciato anche negli Stati Uniti la situazione emergenziale. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sulle notizie in breve. Ora vedo che c'è molta polemica in Gran Bretagna, perché in Gran Bretagna sta nascendo una polemica assurda. Io speravo che tra le buone cose che forse può portare questo coronavirus, che di buono porta veramente poco, ci fosse anche la fine delle teorie esoteriche, insomma un ritorno della scienza vera, quella che si basa su protocolli scientifici, su dimostrazioni, su test e quant'altro, la fine anche delle fake news, il ricorso a fonti di informazione affidabili. E questo vale per i terrapiattisti, vale per i Novax, vale anche per le scie chimiche, ma ne manca qualcuno forse. Vale anche per tutti i teorici della decrescita felice. Qui abbiamo una bella decrescita, perché il PIL italiano è previsto a un meno 6% se va bene quest'anno, e mi sembra che di felicità ce ne sia poca. Guardate, più che la decrescita felice io vedo la ricrescita infelice, ma questo riguarda più i capelli diciamo delle donne, ma non solo, insomma di chi si tinge. No, è la ricrescita infelice quella che vedo, altro che decrescita felice. Però mi sorprende che in Gran Bretagna stia spuntando una polemica anche con atti vandalici, hanno distrutto alcuni ripetitori, perché c'è questa teoria che il 5G avrebbe portato il coronavirus, per carità. Ci sono, sappiamo, mamme che sono sempre incinte. Adesso. Anzi, dovremmo dire che meno male che avevamo le reti di 4G in questo periodo, perché pensate a quello che viene fatto sulla scuola o comunque i collegamenti che tutti noi usiamo per avere un minimo di socialità anche virtuale. No, prendersela col 5G non capisco. Come gli viene in mente certa gente? Vabbè. Anche il Giappone lancia un piano da 915 miliardi di euro. Dalla Cina qualche buona notizia arriva sul fronte del distretto di Wuhan, dove è ripartito il 90% delle imprese e dove è nato il coronavirus. Oggi non voglio fare polemiche con la Cina, aspetto ancora dati più credibili rispetto a quelli oggettivamente non credibili diffusi dalla Cina, che continua a dire che ha avuto 81.000 contagiati in tutto e 3.300 morti. Faccio notare che gli Stati Uniti, che sono un po' più piccoli della Cina, un quinto, hanno già 337.000 casi confermati e 9.600 morti. Ancora, al di là appunto, l'Austria riaprirà gli esercizi commerciali dopo il 14 aprile, partirà con negozi con meno di 400 metri quadri, i vivai e i centri fai da te, e poi il 1 di maggio anche attività nel settore commerciale dei parrucchieri, per esempio, a proposito di ricrescita infelice. La BCE ha fatto sapere che molti... Che nei suoi acquisti di titoli di Stato una buona parte è andata all'Italia, 12 miliardi di euro la settimana scorsa. L'ammontare è più alto di quella che sarebbe la quota italiana in base al capitale del fondo del BCE, quindi insomma ha comprato più Italia che altro come titoli di Stato. Ancora, per quello che riguarda invece i temi che parleremo dopo d'Europa, c'è Scholz che è fiducioso, il ministro delle finanze tedesco Scholz, che una decisione possa arrivare domani. Il MES può essere tra gli strumenti, ma non significa una troica, ma andrà guardato molto molto bene. E poi sempre Scholz ha detto la Banca Europea degli Investimenti, il MES e SURE, che è il programma quello per aiutare i paesi nelle politiche di, diciamo, sostegno al lavoro, cassa integrazione da noi. E poi segnalo però anche una lettera ad Handelsblatt, un appello pubblicato oggi su Handelsblatt, che è il quotidiano economico finanziario principale in Germania, un po' Sole 24 Ore della Germania. Ha detto, a firma di Joschka Fischer dei Verdi e Sigmar Gabriel, ex ministro, tutti e due sono ex ministri degli esteri tedeschi, che dicono: attenzione, l'Europa rischia di fallire di fronte alla prova più grande che abbia mai affrontato da quando è nata. I paesi più colpiti hanno bisogno di un piano in tre punti: aiuti immediati sul piano medico-sanitario, nel medio periodo aiuti ai crediti di lunga scadenza che non vengano calcolati coi criteri di Maastricht, e nel lungo periodo un programma di incentivi all'innovazione per l'assicurazione del futuro economico-sociale. La Germania deve partecipare subito perché, aggiungono, noi, la Germania è lo Stato che guadagna di più dall'essere in Europa, un tema mi sembra molto corretto, e dal punto di vista economico-finanziario addirittura abbiamo guadagnato dei soldi con la crisi della Grecia, e quindi occorre che la Germania, diciamo, partecipi subito a questi piani. Mi sembra che si stia muovendo anche l'opinione pubblica in Germania. Per quello che riguarda dati di carattere congiunturale, il ministro francese all'economia, Bruno Le Maire, ha detto che la Francia va verso la peggiore recessione dal 1945. Ecco perché la Francia è un nostro grande alleato nella richiesta europea. E lo devo dire che la Francia, che deve ancora pubblicare i dati oggi, ma viaggia con a ieri 94.000 casi e ha superato ieri purtroppo gli 8.000 morti, quindi il danno il tasso di mortalità in Francia è un po' sotto quello spagnolo italiano, è all'8,6%. Lemaire dice: attenzione, sarà la peggiore recessione da 1945. È crollato il traffico aereo fra Stati Uniti e USA dell'82%, insomma, non avevamo dubbi. In Germania gli ordinativi e l'industria mostrano un calo meno del previsto, scendono meno 1,4% contro un meno 2,5% a febbraio, però attenzione, manca ancora marzo. Veniamo all'Italia. Uno mi scrive: lei è ossessionato dalla Germania. A me sembra che siano i tedeschi a essere ossessionati dai cosiddetti paesi del sud, salvo dimenticarsi che il 20% delle automobili tedesche vengono fatte dalle imprese italiane come componentistica. Cioè c'è sempre questo ritratto molto, no? Pizza, mandolino. Certo che ci sono cose che non vanno in sto paese. Abbiamo una classifica il venerdì da anni sugli sprechi della pubblica amministrazione, ma da lì a descrivere la seconda manifattura d'Europa come se fossimo tutti pronti a prendere il sole e a sprecare i soldi su. Veniamo all'Italia, dicevo, all'INPS sono arrivate 3 milioni e mezzo di domande per più di 6 milioni e 800 mila beneficiari per l'indennità di 600 euro. Nello specifico sono arrivate 3 milioni di domande per i 600 euro, scusatemi, mentre per la cassa integrazione e l'assegno ordinario sono arrivate nel complesso 211.000 domande, che valgono per 3 milioni e mezzo di lavoratori interessati. C'è un refuso, è crollato il traffico tra Stati Uniti e UE, non USA ovviamente, ho detto tra Stati Uniti e USA, non è il traffico interno, è il traffico tra Stati Uniti e Unione Europea, che è crollato dell'85%. Ho visto come la state segnalando, era chiaramente un lapsus. Poi vedremo come crollerà il traffico interno. Comunque, torniamo alle domande. Dicevo, 3 milioni di domande per equivalenti per i 600 euro ai lavoratori autonomi e 211.000 domande che valgono però per 3 milioni e mezzo di lavoratori interessati alla cassa integrazione. In un totale stiamo parlando di 6 milioni e 800.000 prestazioni, cioè 6 milioni e 800.000 persone o sui 600 euro o sulla cassa integrazione in deroga. Via ok al bonus a 600 euro anche per i collaboratori delle associazioni sportive. E appunto, come dicevo, nel DL aprile arriveranno anche ammortizzatori per golf e badanti. Una cosa mi sembra molto positiva è l'accordo fatto tra le Poste Italiane, che bene si sono comportate nell'erogazione delle pensioni, lo dico così anche all'INPS possono ricordarsi di come sono mosse le Poste, e hanno fatto un accordo molto importante per consegnare le pensioni agli anziani in difficoltà. 23.000 pensionati di età o pari o superiore a 75 anni potranno richiedere ai carabinieri di ritirare, dando la delega, di ritirare loro la pensione che gli verrà poi consegnata a casa. È un accordo, una convenzione tra le Poste e l'Arma dei Carabinieri. Per tutti i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni, complimenti sia alle Poste che all'Arma, che la benemerita, perché sappiamo che il disagio sociale quando sei anziano e magari solo è molto alto, e c'è una difficoltà anche nell'andare poi a ritirare la Posta, c'è un rischio nell'andare a ritirare la Posta. Mi sembra molto importante anche perché appunto così i carabinieri riescono in maniera indiretta anche a censire eventuali altre difficoltà, poi dovendosi recare nelle case di oltre 23.000 pensionati. Ancora sdoganate a Malpensa 7 milioni di mascherine. La notte scorsa hanno sdoganato l'aeroporto di Malpensa 2 milioni e 400 mila mascherine FFP2 provenienti da Shenzhen in Cina. Era giunto poco prima un altro volo da Seoul che trasportava 4 milioni e mezzo invece di mascherine chirurgiche, quelle che proteggono gli altri da te ma non te dagli altri, per capirci. Il Viminale e sono arrivate 650 poco fa. L'ordine dei medici ha annunciato, Anelli, se ho ben visto, che sono arrivate 650.000 mascherine per i medici, anche i medici di base. Eccolo, 620.000 mascherine FFP2 da distribuirsi, era una prima tranche, e quindi ai medici, lo rende noto la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, appunto Filippo Anelli. Insomma, 620.000 mascherine, è chiaro che non sono ancora sufficienti, però è già qualcosa, soprattutto per i medici di base. La Toscana poco fa ha fatto sapere che sarà obbligatorio anche in Toscana indossare la mascherina fuori casa. Abbiamo dato un tempo massimo di 7 giorni per la distribuzione, e quindi appena i comuni avranno ultimato la distribuzione di 8 milioni e mezzo di questi dispositivi, sarà possibile, sarà obbligatorio l'uso della mascherina fuori casa. Ancora per quello che riguarda le notizie sull'Italia, l'ultima riguarda i sanzionati. Uno mi scrive: ma lei è un lecchino verso le Poste. No, abbiamo attaccato duramente l'INPS. Io ho chiesto anche personalmente le dimissioni del presidente dell'INPS dopo quello che è successo. Se c'è qualcosa che funziona in sto paese, non capisco perché non devo dirlo. Le Poste hanno organizzato in ordine alfabetico la consegna delle pensioni, non si sono segnalati grossi problemi. Hanno fatto oggi un accordo con l'arma dei carabinieri per le persone più anziane, mi sembra una cosa positiva, perché non bisogna dirla, no? 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. 249-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, andiamo sul meteo e poi parliamo del DL, del decreto liquidità, cioè garanzie statali alle banche quando prestano i soldi alle imprese. Focus Economia. Sette e 33 minuti. Allora, che cosa dovrebbe essere nel decreto? Un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese su tre filoni: garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro senza che la banca debba valutare alcun merito di credito. Vado lì, dico: ho avuto un calo del fatturato, ho bisogno di liquidità, e fino a 25.000 euro me li dai senza valutazione del merito di credito. Garanzia al 100% sempre dello Stato per i prestiti fino a 800.000 euro con la valutazione del merito di credito. Garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, che può arrivare fino al 100% se vi è una controgaranzia dei confidi. Prestiti più facili anche alle partite IVA, e questo è il tema forte. Poi c'è il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, il rinvio delle tasse e il Golden Power. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora Gianni, sentiamola De Micheli questa mattina a Radio 24 sulla Golden Power, che vuol dire la possibilità che lo Stato blocchi, già esiste per alcuni settori definiti strategici, penso all'energia, penso a chi fabbrica armi e sistemi della difesa. In questo caso la si vuole estendere a anche altri campi, tra cui non solo quello medico, farmaceutico, ma anche quello alimentare, in modo da evitare scalate anche interne all'Europa. Il testo del decreto che ho visto ieri pomeriggio allarga molto il campo dell'applicazione della Golden Power, sia in termini di partecipazioni percentuali, sia in termini di settori. Noi dentro questo decreto stiamo allargando il campo di azione per impedire che con facilità e senza un disegno strategico ci possano essere scalate anche a volte ostili delle nostre aziende. Così appunto il ministro De Micheli. Dunque, già ritrovati, da questo punto di vista abbiamo capito insomma che la Golden Power arriverà, e quella mi sembra la cosa meno, cioè, più chiara. Veniamo alla parte liquidità e prestiti. PMI vuol dire che i grandi gruppi non avranno questa, questa diciamo linea di credito agevolata? Vuol dire, a quanto se ne sa al momento, che i grandi gruppi avranno una garanzia statale che non arriva al 100%, ma che sarà fino al 90%, dovrebbe oscillare tra il 70 e il 90 a seconda delle dimensioni di fatturato, quindi sicuramente una facilitazione, ma non, come dire, la strada spianata per la liquidità, e questo può essere un problema. Infatti il Consiglio dei Ministri al suo interno ha discusso e sta discutendo esattamente di questo punto, perché la differenza tra il 100% e il 99, è la seguente: col 100% agli eventuali problemi ci pensa lo Stato, e quindi la banca fa una valutazione sostanzialmente automatica su prima dell'avvio del finanziamento. Se invece l'ombrello statale è sotto al 100%, questa valutazione non è automatica, perché una quota di rischio viene a carico della banca. Per quanto molto basso, ma certo. Allora, andiamo invece sulle piccole e medie imprese, anche perché sappiamo che è lì poi che spesso si... Non solo lì, ci mancherebbe, anche nelle grandi. Qui stiamo parlando di liquidità che serve per il circolante, o non è importante motivo? Cioè, voglio dire, noi sappiamo che in questo momento il problema è il circolante, pagare i fornitori, pagare i dipendenti, ma se io volessi usare questi soldi magari per un macchinario? Non c'è un vincolo di questo tipo, si studia invece un vincolo per fare in modo che chi ottiene questo prestito garantito parzialmente o totalmente dallo Stato effettui i suoi investimenti in Italia e non all'estero. Questo è un vincolo che sta in discussione, naturalmente bisognerà vedere la definizione finale tecnica della norma. L'altro vincolo è sempre in discussione, è quello di non distribuire dividendi come ha fatto la Francia. Io sono d'accordissimo. Esattamente. Cioè, scusami, ma c'è un vincolo statale per remunerare? È ovvio, insomma, tu non puoi chiedere i soldi allo Stato se hai i soldi da distribuire agli azionisti. Se fai utile che puoi distribuire, non hai bisogno di circolante, usa l'utile che hai. Cioè, alla guerra come alla guerra, lo dico non per chi abbia qualcosa contro le imprese che distribuiscono dividendi agli azionisti, ma se hai i soldi da distribuire agli azionisti hai anche i soldi per pagare i fornitori, chiaro il discorso, e per pagare gli stipendi. Ci sarà un vincolo su chi licenzia? C'è in discussione un vincolo su chi licenzia e su, come dire, una concertazione forte con le organizzazioni sindacali per tutte le modifiche che riguardano la gestione del personale. Ok, e questo per quello che riguarda l'ammontare. Allora, dicevamo 100% per fino a 25.000 euro, invece 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con valutazione del merito di credito. Perché, se il 100% è garantito dallo Stato? Qui interviene soprattutto il tema di chi ha crediti deteriorati, nel senso che se io sono, tra virgolette, un cattivo pagatore, la questione rischia di complicarsi. Proprio per questa ragione si prevede che in questa valutazione, che ovviamente nel caso del 100% di garanzia è molto snella, diciamo molto rapida, quasi automatica, ci sia una esclusione di fatto dei crediti deteriorati, solo però, in discussione, quelli più recenti, cioè dopo il 31 gennaio, cioè dopo che si è iniziato pian piano ad avvicinarsi al momento di crisi. Anche qui la definizione dei crediti puntuale, dei crediti deteriorati che saranno fuori dall'analisi e quindi dall'eventuale rischio di inciampo del finanziamento è un tema molto tecnico, ma molto molto molto importante, perché noi sappiamo già che prima della crisi la catena dei pagamenti italiani non era esattamente la più efficiente del mondo, e sappiamo che una quota di imprese abbastanza importante avevano avuto problemi gestione, diciamo così, delle proprie linee di credito. Questo rischia, se la definizione troppo rigida, rischia di escludere dall'aiuto proprio le aziende più in difficoltà. Vedremo quindi col testo finale se questo rischio si materializzerà. Un'altra domanda che mi fanno molti ascoltatori: come farai a valutare? Allora, noi sappiamo che in questo momento c'è un grosso problema in molte imprese che sono chiuse, e ripeto, è fondamentale continuare a pagare i fornitori per non bloccare l'intera macchina, lo dico ogni volta, ma per essere chiaro, se tu non paghi il fornitore, a sua volta il fornitore non paga i suoi fornitori e si blocca il circolo, come si farà a capire se per qualcuno però non mente? Cioè, in realtà tutto andava bene, ho chiesto 25.000 euro di prestito di cui non avevo bisogno. Beh, le banche, diciamo, da questo punto di vista sono molto ben attrezzate. E per quanto riguarda i 25.000 euro, lì l'idea è, come dire, quello che più si avvicina al momento, nel novero delle cose possibili, all'elicottero monetario. Sì, certo. Che dovrebbe distribuire. Cioè, voglio dire, adesso traduco, qualcuno potrà provare a fare il furbo, ma stiamo parlando di 25.000 euro. Esattamente, quello è. Ecco, tradotto, cioè che non è una gran cifra. La banca ti conosce, intanto tu vai dalla tua banca e ti conosce. Ma metti che tu sia una piccola impresa che non ha avuto nessun danno e vuoi ottenere 25.000 euro in automatico, i tassi sono a zero, giusto? I tassi sono abbassati, quasi dalla garanzia statale. Voglio dire, intanto la banca ti conosce, se scopre che tu magari produci, faccio per dire, non so, salumi, va a vedere bene se hai avuto un danno oppure no, anche se molti hanno avuto un danno e ne parleremo nei prossimi giorni con i produttori. E in secondo luogo, il rischio truffa è veramente basso, anche perché, aggiungo io, dubito che vi sia qualche attività di piccola e media impresa che non abbia avuto un calo del fatturato di almeno 25.000 euro. Poi c'è chi non l'ha avuto proprio, anzi la grande distribuzione, i supermarket, vediamo anche gli alimentari, ma insomma siamo proprio, li contiamo purtroppo sulle dita di una mano. Tutti gli altri, voglio dire, non avere un problema di 25.000 euro in un mese per pagare i fornitori, anche solo pagare i fornitori, è difficile che uno non ce l'abbia. E quindi lì si dice, ho capito, qualcuno proverà a fare il furbo, esiste un tasso di ladri in ogni paese, ma ripeto, la banca un po' te conosce e in questo caso mi sembra che il rischio sia molto basso. Due cose ancora però, Gianni, il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti e poi il rinvio delle tasse. Cassa Depositi e Prestiti. Allora, su Cassa Depositi e Prestiti si è litigato parecchio all'interno della maggioranza, perché lì era sostanzialmente avanzata l'idea di prendere SACE, che è la società che di fatto gestirà le garanzie per le imprese medie e grandi, quindi quelle dal 90% in giù di garanzia, di prendere SACE e toglierla dalla CDP e metterla direttamente sotto al tesoro. Su questa roba si è battagliato fino a poche ore fa, l'idea adesso è che SACE, sempre chiamata a gestire queste garanzie, rimanga come è oggi all'interno della Cassa Depositi e Prestiti, che di fatto è uno snodo fondamentale in questa crisi, perché deve gestire le garanzie per la liquidità delle imprese, dare la liquidità agli enti locali, sospendere i mutui agli enti locali sempre per dargli liquidità, come ha deciso sabato scorso, la settimana scorsa. Insomma, da Cassa Depositi e Prestiti passano tre quarti delle misure per tamponare l'emergenza del paese. Rinvio delle tasse, cioè dovrebbe esserci, ora le scadenze sono fissate al 31 maggio, giusto? Sì, però nel frattempo, allora, sono state spostate al 31 maggio le scadenze del 16 marzo, larga parte degli italiani in verità non ha sfruttato questo spostamento che, se ci ricordiamo, arrivò, mamma mia, sì, sottodata, dopo che la scadenza era andata, per cui sostanzialmente su 11 miliardi che si dovevano versare 2,5 miliardi sono mancati all'appello. Però nel frattempo arrivano le scadenze di aprile e quelle di maggio, che dovrebbero anche queste essere spostate. Uso sempre il condizionale, perché il testo finale dopo il CDM è quello che darà l'ufficialità. Comunque, insomma, sicuramente quelle di aprile, quasi sicuramente anche quelle di maggio, dovrebbero essere spostate a giugno. Dopodiché si pone il problema di un piano di rientro per i contribuenti per queste scadenze, perché non è che finita la sospensione tu puoi ridare a tempo stretto tutti gli arretrati, perché altrimenti ricominciamo da capo con un problema maggiore. Mi chiedono due cose gli ascoltatori. Da un lato, come dovrò ridare questi soldi, perché un conto è avere la facilità, perché se la garanzia dello Stato al 100% la banca fino a 25.000 in automatico, e con una valutazione fino a 800.000, e poi ricordo 90% di garanzie per i prestiti fino a 5 milioni di euro, però lì potrebbero intervenire anche i confidi dando una controgaranzia. Però quando dovrò ridare questi soldi? Le bozze circolate parlano di una restituzione in un arco temporale di 6 anni. Di 6 anni. E questo per quello che riguarda le... mi chiedono se varrà anche per il mondo del commercio. Sì, cioè, nel senso, siccome la cifra di 25.000 euro può sembrare poco, ovviamente a chi ha un fatturato importante, o anche un'industria manifatturiera, ma magari per un bar o un negozio sono cifre importanti, avendo tu chiuso tutto il mese di marzo, e avendo avuto anche, vale anche per il mondo del commercio. Anzi, direi che più che vale anche soprattutto la questione dei 25.000 euro è la platea d'elezione di questo bar, momento. Ristoranti, insomma, chi ha pagamenti di fornitore magari viaggiano intorno a quella cifra. Le cifre sono più grandi invece per chi fa, per esempio, manifattura, dove ha molti più impiegati. Grazie anche a Gianni Trovatti del Sole 24 Ore. Questi gli elementi usciti dalla bozza, poi chiaramente entro stasera uscirà il decreto e domani mattina anche su Sole 24 Ore tutti i dettagli. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, come anticipavo, torna l'appuntamento con Dietro la Notizia e oggi ci occupiamo degli Stati Uniti, ma di vendite sospette prima dell'annuncio dell'emergenza nazionale proclamata da Trump. Dietro la Notizia. Sì, come accennavamo, l'appuntamento con Alessandro Platerotti, editorialista del Sole 24 Ore, che saluto. Buonasera Alessandro. Buonasera a te Sebastiano e buonasera a tutti. Come ogni lunedì, Dietro la Notizia, ci occupiamo anche molto di finanza, ma questa volta il tema, se ho ben capito Alessandro, riguarda gli Stati Uniti, Wall Street e in parte anche il Congresso americano, perché c'è un'inchiesta aperta dal Dipartimento di Giustizia americana e anche dalla SEC su vendita di azioni effettuate poco prima che arrivasse il coronavirus negli Stati Uniti. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di questo. Questo è quanto avviene spesso quando ci sono le grandi confusioni, il caos sui mercati finanziari o i crolli. In questo caso, che è una pandemia globale, sembra essere accaduto anche di peggio. Ovvero questo. Passata la tempesta della scorsa settimana, la SEC e il Dipartimento della Giustizia hanno cominciato un po' ad indagare su chi aveva venduto grossi blocchi di azioni immediatamente prima o immediatamente dopo dell'annuncio della pandemia. L'annuncio della pandemia, ricordiamo, come in Italia lo fa il governo, cioè si annuncia le misure straordinarie. Ebbene, succede questo. Da un'analisi che hanno fatto nel portafoglio hanno scoperto che almeno 5 senatori americani, e vi dico, sono 3 repubblicani e 2 democratici, quindi è bipartisan in questo senso, tutti i senatori che hanno partecipato a una riunione riservata, di cui si è avuto notizia in questi giorni, alla Casa Bianca, per discutere sull'evoluzione del coronavirus. Era una riunione fra l'amministrazione Trump e senatori selezionati dal Congresso. Che succede? Escono dalla riunione e 4-5 di questi immediatamente dopo liquidano i portafogli. Ora parliamo di portafogli azionari che vanno da 1 milione a 5 milioni di dollari. Quindi non proprio i risparmi di una vita, esatto. Diciamo. Quindi parliamo di questi soldi. In un caso è ancora un po', diciamo così, anche più grottesco, perché nel caso della senatrice democratica, nel caso della senatrice Dianne Feinstein, che cosa succede? Lei è addirittura sposata con il presidente del New York Stock Exchange, che evidentemente era stato possibilmente informato. Ora, non c'è, si sta indagando sulle modalità della vendita, perché in America c'è una legge che, una legge si chiama cash clause per i senatori, per la politica, vale che nessuno può utilizzare nel governo o comunque se ha conoscenza di informazioni riservate, queste informazioni per scopi di lucro personale. Dove ci sarebbe qua il lucro e dove potrebbe essere l'insider trading? Allora, noi non siamo abituati a pensare che una pandemia possa dare una fuga di notizie che va sul mercato, ma anche questo è possibile perché? Perché ormai è un dato di fatto che tutti i governi del mondo hanno cercato il più possibile di ritardare, di ammettere che l'epidemia era seria e molto più seria di quanto hanno detto in principio. Allora, qual è il dubbio? È possibile che hanno discusso, si è discusso in certe riunioni, di rinviare l'annuncio per evitare il panico tra gli americani, ma che qualcuno che ha partecipato a quelle riunioni ha poi utilizzato questa informazione a proprio vantaggio. Allora, è una forma nuova di insider trading, ovviamente, certo. Ma allo stesso tempo prefigura che cosa? Che nei grandi momenti di confusione, anche come, soprattutto come quello che ha dimostrato adesso il coronavirus, la vigilanza è fondamentale per dare fiducia di che cosa? Non sul vaccino, ovviamente, ma quantomeno che i nostri soldi sono protetti e vigilati. E soprattutto avrebbe anche una ripercussione politica non da poco, quello che tu stai raccontando, su sì, cui sta indagando l'FBI e la SEC. La SEC è la Consob americana, perché al di là dei valori in gioco, che pure non sono bassissimi, ma il problema è il messaggio che tu dai. Cioè, come tu stavi già ricordando, l'accusa implicita sarebbe non solo di avere utilizzato come insider trading informazioni riservate, ma che il governo statunitense, l'accusa è un po' più ampia, stesse ritardando volutamente la decisione per e nel frattempo lasciando spazio anche a elementi speculativi. Tenete presente che nel caso americano è trascorso un mese dalla riunione del 24 quando Trump ha cominciato ad affrontare in modo serio la questione del coronavirus. Allora c'è un aspetto etico ovviamente nei confronti degli elettori e dei cittadini americani, perché dal presidente ci si aspetta che dica la verità alla nazione, ma c'è anche l'aspetto giuridico, perché allo stesso tempo in questa crisi purtroppo i conflitti di interesse poi vengono tutti a galla, ve ne faccio solo uno. In questo momento c'è una polemica molto forte, sotterranea, perché la Trump Holding, quella che tiene sotto controllo l'intera compagnia aerea che di Trump, è uno degli asset suoi importanti, ha chiesto una dilazione, un rinvio affrettato in default dei pagamenti alla Deutsche Bank, che Deutsche Bank ha anche i suoi problemi. Allora, non è in grado di pagare in questo momento i finanziamenti che ha preso da Deutsche Bank. Allora, anche lì, come lo gestisci? Noi, da una parte è una banca e dall'altra è il Presidente degli Stati Uniti. Certo. Anche questa è una questione etica che fa capire quanto a volte si sottovaluti la questione del conflitto di interessi, ma nei momenti delicati, quando salta fuori, sicuramente crea sconcerto. Alessandro, un'ultima domanda per te, che c'entra marginalmente, però... Tu hai fatto per moltissimi anni il corrispondente degli Stati Uniti per il Sole 24 Ore e segui da vicino gli Stati Uniti. Te lo chiedo perché Trump deve andare alle elezioni, adesso vedremo se sarà confermata la data elettorale oppure no, perché la sensazione che tu hai appunto da osservatore degli Stati Uniti è che la gestione del coronavirus stia danneggiando quella che era, diciamo, una campagna per molti già in discesa, perché con i numeri che aveva sull'economia, la disoccupazione, la crescita del mercato, e la sensazione è che vi sia un doppio danno sia sul fronte economico, ma questo non è solo per Trump che vale, ma anche sulla gestione dell'emergenza. Assolutamente sì, e vi dico perché. Tutti i sondaggi che sono stati fatti circolare sul gradimento, il tasso di approvazione dei governi in questo momento del coronavirus è molto interessante, perché se da una parte hai situazioni come l'Inghilterra, la Gran Bretagna, dove addirittura è salito il rating di Boris Johnson con tutto quello che ha combinato, è salito, ma stanno salendo in generale in tutti i paesi. Sì, anche l'Italia vede Conte molto alto, vicino al 60-70%. Esatto, ma è un trend che riguarda un po' tutti i paesi, guarda, non è molto generalizzato, ma riguarda una fase particolare. Certo, ci si stringe vicino all'esecutivo perché non si vuole polemica. La questione di Trump è delicata perché lui è arrivato molto forte dopo la vittoria sull'impeachment, verso la volata finale, verso il voto, le prime, e però allo stesso tempo si è comportato un po' da uomo d'affari, direi, un po' troppo, nella questione del coronavirus, perché ha messo avanti fin dal primo minuto la questione dell'economia che deve andare avanti, noi non ce la prenderemo, l'America è forte. Questo che è successo? Al momento che sono esplosi infezioni e morti, è diventato un boomerang, perché la gente ha cominciato a dubitare di quello che dice per la prima volta. Qui non si tratta più di fermare i messicani o di fare la guerra alla Silicon Valley, si tratta della salute, per cui è l'unico paese in cui attualmente viene registrato un indebolimento della forza di Trump. Questo non significa che perda le elezioni, no, certo. Ma significa che un sentimento di scetticismo ha cominciato a insinuarsi nella mentalità degli elettori. E fai bene a far notare che è l'unico caso tra i paesi occidentali, perché abbiamo visto anche noi che tutti alla fine non si cerca polemica, ci si stringe, diciamo così, vicino all'esecutivo, e poi i conti si faranno a emergenza passata. Grazie anche Alessandro Platerò. Sì, dimmi. L'ultima cosa veloce, abbiamo cantato e decantato per settimane i cinesi che hanno aperto in 10 giorni un ospedale, sì, lo ricordi? Sì. Beh, ieri in Inghilterra hanno aperto, inaugurato, certo, un ospedale con 4.000 nuovi posti letto dedicati al coronavirus in 9 giorni, completato dall'esercito inglese. Sì, e ne abbiamo dato notizia, devo dire che oggi, abbiamo visto che tu mi lanci il tema, è arrivata, come ricordavano anche i nostri GR24, la prima ambulanza invece nel mega centro che è stato creato qui vicino a noi, all'ex fiera, alla fiera Ropero, dove appunto è il grandissimo centro allestito. Grazie, appunto con Bertolaso come commissario straordinario. Grazie allora ad Alessandro Platerotti, l'appuntamento è a lunedì prossimo con un'altra, diciamo, approfondimento di Dietro la Notizia. Grazie, un abbraccio. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi, ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video, con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione si sente. Si sente. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Devo dare una correzione, ho detto la vecchia fiera RO, chiaramente quella è la nuova fiera, l'impianto che oggi ha ricevuto i primi pazienti è a Portello, e quindi la vecchia fiera intesa come, per chi conosce Milano, quella storica qua, 400 metri dal Sole 24 Ore, e chiedo venia. Per quello che riguarda il gradimento di Conte, che si commentava, guardate, questi sono sondaggi che leggiamo sui giornali, ma è un dato di fatto, in riferimento a quello che diceva prima Alessandro Platerotti, che nella maggior parte dei paesi in questo momento vi sia un consenso nei confronti del governo, ma non dovuto a un'approvazione esplicita. Insomma, non si vuole fare polemica, ci si stringe così attorno all'esecutivo. Poi vi sarà anche il momento per le valutazioni a tutti i livelli, nazionale, regionale. Molti mi stanno scrivendo in questi giorni sul caso Lombardia. Insomma, che qualcosa non abbia funzionato nella gestione in Lombardia, lo dicono i numeri. Se la Lombardia avesse i numeri del Veneto in proporzione agli abitanti e del Piemonte, non staremmo parlando del primo paese al mondo per numero di morti, avremmo decine di migliaia di contagiati anche in meno, oltre che migliaia di morti. Non ha funzionato qualcosa. Mi scrivono ascoltatori veneti a dimostrazione che qui non è un tema politico, la regione Lombardia è governata dalla Lega, così come la regione Veneto. Che il modello Veneto ha funzionato meglio nel pre-triage, lo vedremo più avanti. Adesso stiamo ancora affrontando giorno per giorno l'emergenza. Infatti, dopo che Gallera, l'assessore alla sanità milanese, ha detto che i dati arrivati oggi dalla Lombardia sono confortanti, sentiamo la conferenza stampa della Protezione Civile. Aspetta, ieri di 1941 pazienti, di questi 3.898 sono in terapia intensiva. Quello che voglio evidenziare è che per il terzo giorno consecutivo il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è negativo, quindi un alleggerimento di 79 pazienti dalla terapia intensiva. Il numero dei ricoverati è 28.976, sono quelli che sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte dei pazienti, 60.313, pari al 65% del totale, sono in isolamento domiciliare senza sintomi e con sintomi lievi. Purtroppo anche questa sera dobbiamo dare il numero dei deceduti, sono 636 nuovi deceduti. Il totale dei guariti invece è di 22.837 unità rispetto a ieri sera. Sono 1022 le persone che sono guarite. Un altro dato che voglio dare è il dato delle somme che sono state raccolte sul conto corrente della donazione del Dipartimento della Protezione Civile. Siamo arrivati a oltre 107 milioni di euro, 107 milioni per l'esattezza, 556.081 euro, una somma molto importante che sarà utilizzata per l'acquisizione di DPI per ventilatori e il potenziamento delle strutture sanitarie. Rispetto a ieri abbiamo speso su questo conto corrente ben 6 milioni e 400 mila euro, il totale delle somme finora impiegate è di oltre 19 milioni di euro. Le forze in campo sono sempre consistenti, abbiamo 16.281 volontari impiegati che si aggiungono a tutte le altre. Allora riprendo la linea, ci sono due buone notizie e una non buona, diciamo. La buona notizia è che continuano a calare i pazienti in terapia intensiva, 79 in meno rispetto a ieri, che sono scesi a 3.898. Due giorni fa erano superiori ai 4.000, quindi adesso non riesco a fare il conto a mente, ma abbiamo risparmiato almeno più di 100, 110, 120 posti in terapia intensiva, in questi anche di più, in questi tre giorni. Questo è molto importante perché, per esempio, come sapete, il cross, quindi il trasferimento di pazienti in terapia intensiva, è terminato in questo momento in Lombardia, non c'è più bisogno, ci sono più posti liberi di pazienti. Fondamentale questo per la pressione sugli ospedali. Buono anche il dato sui quanti sono i contagiati più di ieri, e sono il numero complessivo di contagiati, comprese le vittime e guariti, è 132.000, ma comunque l'incremento è di 1.941 rispetto a ieri, che è un buon dato perché vuol dire un più 2%, e la serie che abbiamo segnava un più 3% domenica su sabato, un più 5 sabato su venerdì, un più 6 venerdì su giovedì, e 6%, 7% era l'incremento lungo tutta la settimana scorsa. Avevamo iniziato una settimana fa con un più 8%, più 5%, scusatemi, dei positivi. Ci siamo stabilizzati tra il 3 e il 2%, ma siccome quello che importa è la media sulla settimana, si è sul 3-2%. I morti invece non calano, e questo è il dato non bello, perché ieri sono stati 525, il giorno prima 681, oggi sono tornati ad essere 636, quindi sono 100 morti più di ieri. E questo è l'elemento, diciamo, che è sicuramente negativo, mentre il numero di contagiati, quindi anche di ricoverati, cresce poco, il numero di morti invece è salito rispetto a ieri, appunto, di più di 100 unità, di 110 unità per la precisione. Certo, erano più alti la settimana scorsa, si viaggiava tra gli 800 e i 600, la settimana prima tra gli 800 e 700, però il numero di 636, mentre ieri era il numero più basso di morti da metà marzo, 636 è un numero simile a quello che facevamo verso fine marzo, insomma. Sui morti ancora non, sui deceduti non è un più 4%, mentre ieri era stato un più 3% il numero dei deceduti. Per cui è una fotografia in chiaroscuro, con un numero di contagiati, una curva che si sta appiattendo, resta appunto al più 2% nei contagiati. Bene le dimissioni nei reparti, la pressione sui reparti ospedalieri di terapia intensiva, ma non solo, purtroppo le vittime non sono calate, anzi sono aumentate. Sì, poi sappiamo che ci sono dati sulle mortalità, ahimè, che riguardano anche i centri per anziani che sono arrivati più tardi. Non riusciamo a dire obiettivamente quali fossero, diciamo, i deceduti che vengono contati adesso, anche se purtroppo il decesso era avvenuto in precedenza. Però insomma, noi sulle cifre ci basiamo, e il dato di oggi è abbastanza netto. Calano i contagiati come incremento, più 2%, e invece tornano a salire i defunti, che tornano al 4%. Allora, nel frattempo, dopodiché, devo dire una cosa: guardate, non ho nessuna intenzione di far polemica. I medici e gli infermieri lombardi, a maggior ragione, come tutti i medici e gli infermieri di questo paese, ma a partire da quelli lombardi, hanno fatto e stanno facendo un lavoro incredibile, da eroi, e sono anche morti in alcuni casi. Ho solo detto che quando vi sarà il modo e avremo finito di fare il bollettino, anche per il futuro, capire che cosa non abbia funzionato nella gestione dei focolai e nella nosocomizzazione, come dicono gli esperti, cioè che poi questi focolai hanno preso ancora più forza dentro gli ospedali, e perché invece in Veneto e in Piemonte non c'è nessuna polemica politica, come vedete, visto che i governatori delle tre regioni hanno lo stesso colore politico. In Veneto e in Piemonte ci sono stati casi, un'incidenza nettamente più bassa. Quello è un ragionamento che bisogna fare anche per non ripetere errori nel passato. Forse bisognava chiudere prima, forse bisognava fare pre-triage e quindi non dare l'ospedalizzazione immediata. Forse le strutture sul territorio sono diverse, la sanità lombarda ha centrato più in grandi centri rispetto a quella veneta. Non lo so, bisognerà però fare un'analisi. Non ho detto che è la colpa dei medici o gli infermieri, che sono gli eroi di questo paese in questo momento, a maggior ragione in Lombardia. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Traffico. Focus Economia. E veniamo all'ultima parte, perché se oggi, come dicevo, le borse hanno reagito più che bene dal punto di vista dell'accordo che si prevede in Europa e delle iniziative a livello internazionale, si inizia a fare un calcolo di quello che potrebbe essere l'impatto sulle singole economie. Vedo però una notizia importante che voglio dare. E poco fa Borrelli ha detto che è stato istituito con un'ordinanza della Protezione Civile un fondo per provvidenze destinate ai familiari dei sanitari deceduti. Ha ringraziato Diego Della Valle, che ha promosso la raccolta per chi è rimasto orfano o ha perso un familiare a causa dell'emergenza. Questo riguarda i familiari dei sanitari deceduti. Ma dicevo, si fanno i primi calcoli. Allora, è ancora molto difficile capire esattamente l'impatto complessivo. Noi proviamo a farlo oggi con Luca Burraffato, che è capo del Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa per Euler Hermes, che è uno dei leader mondiali nell'assicurazione dei crediti ed è presente in 50 paesi. Buonasera Burraffato. Buonasera direttore. Allora, senta una cosa, ripeto, è tutto ancora molto provvisorio. Abbiamo visto una stima del PIL di quanto perdiamo più o meno al mese, la Confindustria stimava in 100 miliardi, perché basta dividere il PIL per 12 mesi, alcuni mesi fatturi di meno, come produci meno PIL rispetto ad altri, ma sono più o meno 100 miliardi. Voi come stimate essere la recessione globale e poi a livello anche italiano, europeo, italiano e anche a seconda delle tipologie di impresa? Allora, noi abbiamo provato a fare una stima in un'ipotesi in cui la crisi, o meglio il cosiddetto lockdown, quindi la restrizione, finisca essenzialmente alla fine del secondo trimestre. In questo caso la previsione è essenzialmente che l'impatto sull'economia globale porterebbe a un calo del... Quindi per fine mondiale. Giugno, dice lei? Sì, questa è l'ipotesi che abbiamo provato a fare, quindi la famosa ipotesi in cui c'è la U, cioè poi c'è la ripresa anche se un pochino più lenta. Non abbiamo fatto l'ipotesi in cui la restrizione, quel cosiddetto lockdown, duri poi fino al terzo e quarto trimestre, perché questo diventerebbe... Quindi voi immaginate che ci siamo mangiati, diciamo, aprile, maggio e giugno, e aggiungo io anche marzo però. Esattamente. Mm-hmm. Tenga conto che, per darle un ordine dimensionale, nel primo trimestre si è bruciato qualcosa come oltre un trilione di commercio commerciale. Consideri che a trimestre... Il commercio mondiale è di circa 5 trilioni, quindi in un trimestre 5 mila miliardi, quindi se ne sono bruciati 1000? Esatto, quindi il 15%. Uh-huh. Quindi, e tenga conto che in un meno periodo di restrizione ogni mese in termini di esportazione si perdono quasi oltre 530 miliardi, quindi l'impatto è molto importante. La stima, quindi facendo questa stima, ipotizza che il PIL mondiale vada a 0,5 più 0,5 quello mondiale, contro un 2,4 che erano le previsioni di inizio anno. L'Italia sarà invece impattata, perché dal 0 più 0,3 si prevede un meno 6,1% a fine anno. Mm-hmm. quindi è sicuramente molto importante l'impatto. Allora, per quello che riguarda invece l'Europa, che stima avete? Ma l'Europa dovrebbe comunque anche quella andare intorno al 2-3%, dipende poi molto da quanto i vari paesi fanno le azioni che vengono fatte dai paesi a sostegno dell'economia, a sostegno della liquidità delle imprese. Per cui dipenderà molto dai diversi paesi. Stiamo guardando ad esempio i vari impatti degli stimoli. Gli stimoli possono oggi andare a un impatto positivo sul PIL da 0,5 a 1,3 a seconda che venga fatto in Spagna o venga fatto in Germania. Però diventa veramente molto complesso, perché ogni settimana le stime cambiano a seconda anche dei provvedimenti che vengono presi da parte dei governi e dall'altro lato da quanto le restrizioni o lockdown vengono ampliati o vengono accorciati. Veniamo all'Italia e soprattutto alla tipologia di imprese. L'Italia invece è una situazione particolare, nel senso che chiaramente le imprese più toccate saranno le piccole e medie imprese. Consideri che prima della crisi si prevedeva che c'erano già oltre 3.000 piccole e medie aziende a rischio in Italia, quindi stiamo parlando anche di un numero importante. In Italia la previsione a fine anno è che le insolvenze cresceranno del 18%, quando l'anno scorso erano almeno 2, quindi la previsione è che con i dati attuali circa 13.000 aziende saranno in default. Se poi andiamo a guardare... Ma questo includendo, visto che stiamo aspettando il decreto, anche i prestiti che verranno garantiti dallo Stato o al netto? Allora, noi di questo? Oggi abbiamo valutato il primo decreto, quello da 25 miliardi. Oggi dovremo vedere il secondo decreto che impatto avrà, perché chiaramente da quello che si... dalle prime informazioni c'è un intervento molto importante che verrà fatto sia per la piccola e media impresa, ma anche per le imprese sotto i 50 milioni di fatturato. Sì, sì, quindi ne parlavamo prima, perché sono 25 mila euro senza analisi del merito di credito e invece fino a 800 mila, sempre al 100% garantito dallo Stato, ma con un'analisi del merito di credito. Esatto, quindi è un impatto molto importante. Questo non è ancora stato stimato. Il punto è che in Italia oggi sono toccati tutta la filiera produttiva, sia quella si dice a monte, cioè delle materie prime e dei semilavorati, perché c'è una difficoltà di approvvigionamento, sia in quella valle. L'Italia è famosa per essere capace di produrre prodotti finiti di alta qualità. A oggi vediamo un impatto importante sul settore degli elettrodomestici automotive. Inutile dire che i servizi saranno toccati pesantemente. Ecco, però mi lasci dire una cosa su questo. Adesso noi vediamo l'impatto su tutto. Abbiamo visto le immatricolazioni praticamente meno 90% auto. Però sappiamo in economia che esiste una differenza tra il bene durevole e il bene a largo consumo. Cosa voglio dire? E poi il bene voluttuario. Il bene durevole, io adesso l'automobile, il frigorifero, la lavastoviglie, l'elettrodomestico non l'ho comprato, intanto perché i negozi sono chiusi, ma anche perché ho rimandato. Però se poi torno al lavoro e poi riaprono, posso posticipare questo acquisto anche a settembre, anche a ottobre. E tanto, siccome ne compro una all'anno o una per un po' di anni di automobili, di lavatrici o di elettrodomestici, sono beni durevoli, poco cambia se ho fattura a settembre o a maggio o a giugno. Altra cosa sono invece i settori del mondo del commercio, ristoranti e bar, perché come dico con battuta, non è che possa bere 8 caffè al giorno da settembre, non posso andare a cena 3 volte al ristorante da settembre. E poi concludo con i beni voluttuari, cioè il settore turistico, alberghi, viaggi. Lì io non sono obbligato neanche andare al bar, al ristorante, però diciamo quello fa parte anche dei consumi più così abitudinari. Io posso anche decidere di non usare proprio l'aereo o l'albergo. Quindi noi vediamo una certa differenza nell'impatto poi finale, cioè dovendo tracciare una riga al 31 dicembre 2020. Sì, la vediamo, e soprattutto noi riteniamo che, come diceva anche correttamente lei, il settore più penalizzato sarà sicuramente quello turistico e quello dei trasporti, sia avio che su terra. Quelli vediamo un difficile recupero anche nella seconda parte dell'anno. Ci aspettiamo chiaramente invece un recupero sul settore elettrodomestici e automotive. Questo chiaramente, e poi per quanto riguarda invece se guardiamo la parte di esportazione, il sistema moda continuerà a pagare, perché già i primi mesi sono penalizzanti, ma prevediamo che anche soprattutto nei paesi di principale esportazione, che sono oggi il sud-est asiatico e la Cina, continueranno a soffrire da questo punto di vista. Quindi poi chiaramente bisognerà differenziare tra settori e settori. Alcuni sicuramente a fine anno continueranno a essere penalizzati. Allora, questo mi permette anche di rispondere a alcuni ascoltatori che dicono: ma non ritenete che il governo sta facendo quello che può fare? Vedo che adesso anche il comitato tecnico scientifico in conferenza stampa ha appena detto, l'ha detto Luca Richeldi, i dati confermano un trend confortante che vediamo da qualche giorno per efficaci misure di contenimento. Dal 30 marzo al 6 aprile i ricoverati, questo è molto importante, hanno fatto meno 90% nell'ultima settimana, da 409 a 27. Per le terapie intensive il saldo era positivo, cioè più 75, c'erano più persone che necessitavano della terapia intensiva di terapie intensive esistenti nel nostro paese il 30 marzo, oggi è di meno 79 e quindi c'è una differenza di 150. Invece purtroppo dice il trend è meno forte sui decessi, il 50% sono ancora in Lombardia, ma su base settimanale c'è una diminuzione del 20% anche nei decessi, perché se lui confronta la settimana, diciamo, questa con quella precedente, c'è obiettivamente una diminuzione del 20% nei decessi. Guardate, non ho nessuna intenzione di fare polemica in con la Lombardia. Faccio notare che la Federazione Regionale dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri in Lombardia ha scritto una lettera a Gallera dicendo, citando gli errori nell'iniziale gestione, gestione confusa della realtà e delle strutture per gli anziani, nonché dei centri diurni. Ma questo avremo modo. Altra cosa che mi dice a proposito dei settori che devono ripartire, servirebbe una task force. Sì, io penso che ci sia bisogno, chiamatela come volete, un gruppo di lavoro. Io penso che adesso il governo ha una sfida importantissima con l'Europa, domani l'Eurogruppo e quant'altro. Però poi, quando bisognerà andare alla fase 2 o fase 3 di ricostruzione, sarà utile non far tutto da soli. Intanto perché alcuni soggetti magari hanno bisogno di un aiuto, dall'altro perché c'è bisogno di persone che conoscono bene i settori produttivi, che facciano analisi ancora più dettagliate di quella che abbiamo fatto noi, stabilendo percorsi e aiuti diversi a seconda del tipo di settore in cui sei. Non siamo tutti nella stessa barca, ci sono settori che sono molto più in ginocchio e saranno molto più in ginocchio di altri, con politiche mirate per ogni settore. Vedo appunto che c'è chi dice il voucher per l'acquisto di il voucher per andare al ristorante, o anche alcuni hanno proposto un voucher, un mega sconto detraibile dalle tasse per le spese in turismo quest'estate se fatte in Italia. Altri hanno proposto che, per esempio, i soldi della lotta all'evasione vadano tutti direttamente a aumentare la spesa sanitaria al netto di quello che avresti già speso. Insomma, c'è bisogno di un... non si possono fare solo decreti. I decreti sono per situazioni di emergenza. Poi occorre che vi sia un tavolo di persone competenti che conoscono i mondi del lavoro di cui parlano, non solo per sentito dire, ma perché li hanno frequentati e sanno cosa vuol dire una filiera produttiva, sanno cosa vuol dire un settore, un comparto, confronto. E poi da soli non si fa niente, neanche a livello governativo. Altra cosa è adesso gestire l'emergenza. Comunque avremo modo per parlarne. Intanto, da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Buona serata, da passarsi regolarmente ovviamente a casa.